Ogni sabato e domenica, quando io non lavoro, ho un'emicrania pazzesca che solo con Pauli riesco a far guarire. Da spaccare, come si dice, la testa contro, da sbattere la testa contro il muro. Stefano. Esatto, l'unica alternativa è lavorare anche sabato e la domenica. Vede? Professor Barbanti, l'emicrania da weekend, potremmo dedicare una puntata a questo tema, abbiamo un paio di minuti scarsi, un minutino scarso, per dare qualche consiglio. È frequentissimo, io ripeto sempre consigli di questo genere, cercare di diluire il passaggio, ridurre il gradino tra il venerdì e il sabato, nel senso se il sabato decidiamo di svegliarci più tardi, non facciamo troppo tardi però o bagordi il venerdì sera, perché poi quello che succede è che si mescolano magari pizze con gli amici, una birra in più, il relax, il sabato mattina un caffè in meno perché intanto non vado a lavorare, un'ora in più, e allora in questa patente appunti che ti viene sottratta per eccesso di inflazioni, togliamo qualche inflazione. Ricordiamo però che quando ci servono cure, i beta bloccanti, medicine sicurissime, in piccole dosi, date dal medico, anche dal medico generico, ci aiutano a smussare, bloccando l'eccesso di adrenalina, questo gradino che ci fa sobbalzare questa buca e che ci fa saltare il mal di testa proprio quando non dovremmo averlo, come la nuvola di Fantozzi. Perché, professor Barbanti, soprattutto le persone che hanno la cefalea da weekend possono giocare in anticipo o con rimedi naturali, abbiamo parlato del partenio, abbiamo parlato del coenzima Q10, oppure facendosi consigliare dal proprio medico con il beta bloccante. Funziona da terapia preventiva? Funziona da terapia preventiva, a volte sono anche altri composti dal nome ancora un pochino più complesso e avveniristico, però insomma è lo strano destino dell'emicranico, vive sulle spine dà il meglio di sé. O se no bisogna dargli 3 giorni allunghiamo il weekend ma questo è un po' difficile, alcuni grandi professionisti riescono a farlo e è un rimedio molto naturale, molto comodo. E sottolineo il consiglio che lei ha dato a tutte le persone: per avere testa, per mantenere efficiente il cervello, diamoci delle pause, respiriamo, e vuol dire proprio prendere il respiro. Abbiamo messo sul nostro sito tanti consigli sulle respirazioni, la respirazione diaframmatica, muovere l'ombelico, ma è un respiro inteso anche come stacco, distacco un po' dai problemi quotidiani, professor Barbanti. Sì, guardi, ci sono degli studi che tra l'altro hanno destato anche molte polemiche sulla spiegazione dell'effetto rilassante che hanno le preghiere o i mantra, quindi al di là della religione. Proprio perché la cantilena induce una sincronizzazione della respirazione vantaggiosa, una sorta di litania che la si voglia vedere laicamente o meno, fa aiuta. Bene. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi, Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, io vi aspetto domani, buona giornata. Essere e benessere.